vecchi della tua città. E tuo cuore si fece stregare da quelle fiamme di libertà. Quelle sporche periferie, simulavi notti dai parenti, raccontavi un sacco di bugie. A Novara tutti in treno ancora, ti ricordi che mentalità. Al bancone hai fatto troppa scuola, tocchi al doppio della tua età. Sempre tuoi amici tuoi, sempre uniti nelle strade. Giovane incazzato e sempre in cerca di guai. Away, away. Quella strada ancora è noi, senza un posto dove cazzo stare, aspettando un giorno che non arrivo mai. Away, away. Quante volte ancora noi. Oh, eh, birre ancora e quante non ti vedrai. Away.